attenzione, il canale 10, c'è qualcuno. E chi c'è qua? Ebbene, Toniano. Avete fatto Valdoria ieri? Abbastanza, dai. Aveva bombe di gente a casa, ieri, dai. Stavo facendo karaoke. Avevo le salute, lo sanno. Abbiamo cenato qua tutto quanto, poi alla fine se sono andati mattati, però ci vuole un po' di Valdoria, avete fatto benissimo, eppure noi abbiamo fatto la nostra avventura, abbiamo fatto qua, abbiamo cantato, tanto ma vedi chissà chi ha da paura di questo stesso. I balli hanno fatto. E quindi zirali. Senti un biglietto di paro puro, ma dai. Per forza, perché il sindaco ha detto che lui pensa più a aggiustare marciapiedi, strade. Dove? Che piuttosto che spenderli in cose così, capito? Ma lasciamo perdere, va. Siamo venuti un carro, e appunto è tutta fuori, sa, se è tutta messa male, e lui dice che preferisce spenderli in altre cose piuttosto che per forza. Fanno 30.000 piazze, farne una è fatta bene, vai in Piazza d'Italia, fai un bel concerto, ma con un cantante che attiri la gente, non con cantanti da 13. Allora, se me lo posso io mi cambiate a fare un karaoke nei 50.000. Ma è possibile, perché karaoke attrae molta gente, è possibile, inoltre che tu lo fai in 3-4 piazze, non rende, fallo in un posto unico, fallo in Piazza Resini, fallo di Busso di Piazza d'Italia, però nel salotto di Sassari, là. E poi soprattutto bisogna pagare un cantante come si deve, e se no la gente non ci va. Ma detto che se me lo posso io la piazzetta ne ha 50.000 a campagna. Guarda che Alghero erano 50.000 persone. Già lo so. Ma che spettacolo. Appunto. Anche Mammarrone. Fatto mi pare 30.000, no, non 50 ma 30.000 persone. Io lo so, ma la cosa che ha fatto un prete, o un coso è, con un CP2 e basta che si dica, sono CP2, so, e mi meraviglia per di loro, per il coso dello spettacolo. Dello spettacolo mi meraviglia per loro, che è una persona che non dovrebbe capire, e invece più tonto di un tonto. Perché non c'è organizzazione qua, capito? Ci deve essere un assessore allo spettacolo che si interessa di queste cose qua, se dopo anche Bultuccio c'è poco da fare, così vengono gli spettacoli. Questa è stata una delusione grande per Sassari, pensavano chissà che cosa, invece è una città grande, ragazzi, Alghero sta fottito. Da poi non è fatto bene, Gigino l'ha buttato il culo alla Pelocche, lascio come si chiamava, ecco, tutti questi si chiamano i baroculo, si chiamano, c'è molto di cane, dai, 15 persone di Angela, dai. Disperati, dai. Ci sto per, cioè, è proprio un caso di pigliare in giro, un caso, perché c'è uno sfottò enorme, cioè. Ma io tra il 30, il 31 e l'1 ero solo perché Elena stava lavorando di notte. quindi mi sono guardato quel programma televisore a canale 5 e ti dirò che mi sono divertito più a vedere quel programma lì, piuttosto mi stava avendo voglia di andare a vedere lì a Sassari, però ho detto poi non riesco a stare in piedi, da voi si imbriagano tutti, si chiudi la roba, oh, lascia perdere, là. Me ne sto a casa tranquillo, mi sono guardato quel programma lì. Non mi ha detto niente, se no scende più qua. Non ti ho detto niente, tanto perché fino all'ultimo pensavo di fare qualche cos'altro, invece poi è andata male, dai. Ero stato invitato anche ad andare in una scuola di ballo dove c'è questa amica che fa ballo e facevano il cenone tutti quelli della scuola di ballo, solo cosa ci fai? Io a volte ho dolori, ho bisogno di coricarmi, di stare tranquillo ancora, capito? Non sono al 100%. E quindi ho preferito starmene a casa rilassato, dai, e niente. E poi anche il cane, poveraccio, aveva paura, questi spari, si incazza di brutto, non è che ha paura, si incazza lui, si incazza, abbaia un bel. E invece sono i cani che si nascondono, si tremano, ma questi butti qua fanno spaventare tutti gli animali, scappano, muoiono di infarto, ancora non hanno compreso. Vicino a casa tu dovevi vedere cosa c'era di fuochi d'artificio, hanno fatto proprio fuochi d'artificio nella piazzetta, hanno fatto fuochi d'artificio, capito? Purtroppo è quella la tradizione, basta, non c'è può fare niente. Devo dirci che scende di qua, ti cantate una canzone e via. Voi soli eravate? Eravamo in tre, c'era anche mia cognata, ma non veniva proprio. Venite, offrivo qualcosa e via. Sì, vabbè, che basta da Roma a testa, tu. Poi il giorno dopo però ho fatto casino, dai, c'erano un po' di gente a casa. C'avevo 7 invitati, non ti dico altro, poi se ne sono aggiunti altri la sera e via. Non sapevo più di bulimie. Vabbè, ci siete divertiti, dai. Sì, ci siamo divertiti, poi a una certa ora Elena ha dovuto andare a lavorare e loro sono ritornati e però non abbiamo cantato dopo perché era troppo tardi, dai. E quindi siamo stati in compagnia lo stesso. Vabbè, vado la prossima volta. E infatti, cioè non muori nessuno, io sono stato bene, ero bello sdraiato nella poltrona, oi, chiami Doc. Mi sono guardato a Paricucci, ha fatto un bel programma, c'ha tutti i cantanti del momento, cantanti vecchi tipo Ivana Spagna, tutti quelli lì che facevano musica in discoteca, insomma è stata una bella serata, dai, ha fatto, poi alla fine hanno contato al contrario, fino a mezzanotte, mi sono stampato lo spumante, un pezzo di panettone e mi sono giocato da lì. Allora, dopo è stata la guerra. Per carità. Ma qua sono bombe, non sono cose, non sono petardi, sono bombe quelle che buttano qua. Allora, è cosa di copiare i miei tu da chi sei esagerato lo mantessi, c'è un'ordinanza del sindaco, però non la fa rispettare, capito? Doveva mettere il vigile urbano che scoppiava petardi, subito multa di brutto. Ma lo sai, tu è perché non c'hai animali, se no avresti capito gli spaventi che si prendono. Sì, vabbè, ma c'è più sana questa cosa. Ma l'animale sarà pure un po' spaventato, ma non è questo. Ne muoiono anche di infarto, non ti dico altro, ne muoiono anche di infarto. Ma devo lasciarli fuori. No, non fuori, io chiudo anche le serrande, tutto quanto. Perché non si sa mai che qualcuno si scappa in briaco, si scappa anche in colpo di fucile, a chi lo che si intende voi scoppiettate il fucile. No, ma non penso. A tutti, non metti, quando a Capodanno abbiamo cantato tutti al baracchino. No, ogni agottura. cose per fare, non è che non sono cose passate solo, ci siamo fatti gli auguri così cantando. Ma sta passando pure in basso nei veleni, no, che un certo e due sempre incantati a girare le spalle, meglio quel caso. Ah beh, appagato. E beh, anche tu, come sta andando l'antenna? Ultimamente è rimesurato come era stazionale, non viene. Allora va bene, dai. C'è stazionale, va bene. In lontananza provatela. Devo salire un po' di più. Fino a quando te la fanno mettere sul tetto, dai. Ma sono convinto che se la sacco tutto, questa funziona bene. Se fosse stato all'ultimo piano sarebbe stato di lusso. Ma lì c'è troppo in basso, capito? È accaduto per il secondo piano, avrebbe portato un paruaccio, Ma vabbè, cosa devi chiedere? Permesso alle case popolari per salire? Penso di sì. E tu niente di fare questo permesso. E lì che comandano sono la gente, non sono le case popolari, che il proprietario sono le case popolari. L'aria. Cosa? L'aria si chiama aria. Ah. L'area. Penso che ti diano il permesso, ma sa che tu ti devi firmare che praticamente ti prende la responsabilità che se fai da non te le fai, ti paghi le tegole, ti paghi i danni che fai. Ma cosa tegole? Non c'è tegole qua, c'è il conventato. E allora, non lo so, l'interessante è che tu non fai danno, capito? Ma io adesso stavo pensando, stavo pensando di farmi un tubo. Fatto e salirci lassù, tanto è poca cosa, non parlo da 4 metri se ti riesci tutta la barca piccola, non è che te la fare chissà che cosa. Vabbè, ma bisogna vedere se chi c'è sopra sopporta che ci sia il tubo di facciata, quello è. No, c'ho anche la facciata libera. Ah? Da qua c'ho la facciata libera che non c'è nessuno. Come, sopra di te non c'è nessuno? Sì. No, aspetta, c'è, allora sopra di qua c'è la finestra, quella di su, della comare, c'è quella di su. Però se io lo giro così, c'è il muro, capito, da lì, che cazzo mi può dire niente? Ma c'è gente che si attacca perché non vuol vedere robe facciata, anche per le antenne paraboliche. Molta gente fa esposti perché non vuole vedere le antenne facciata, vuole che le mettano dietro. Infatti io le lascio dietro qua. Ah, ma c'è il culo, mette il bone. Lo so. Io mi auguro che ti facciano mettere una bella antenna e buonanotte e risolvi il problema. Adesso per il momento questa bomba un balenco, diciamo. Se sono convinto che se la salgo bene riesco a modulare bene. Riesco a uscire anche forte. Sì, già va bene la bomba, che sei in alto va bene. Io ci metto il palo, la salgo su. Adesso che riesco a uscire dal tetto, va bene. Guarda l'ubrofetta con la boomerang che arriva da tre parti. No, appunto. Non si è più sentito, chissà che fine ha fatto. Prima entrava tutte le serie, adesso non sta più entrando. Forse si è stufato. Non l'ho più visto. Si è appagato. Poi sta lavorando. Non riesco a sentire lì. Senta, Massimiliano altro giorno e basta. Però cioè, se io sono convinto che se io faccio un assalto. Dipende anche come puntata, tanto se è puntata verso l'altra parte è logico che li puntino, perché quelle sono direttive, capito? Sono antenne direzionali. Ma se c'è il coso libero c'è la sintesi. Sì, un po' di più, ma più che altro è la direzione in cui la punti, senti, capito bene? L'ideale sarebbe sul tetto senti tutti perché ti arriva anche per padre. Certo, è anche una bella zona la tua, nel senso di per parlare con le parti lontane, diciamo, è una buona zona. Sì, una buona zona. Se io adesso riesco poi tanti altri è come che se me ne scappano, la resa aumenta parecchio. por dottore, se ti sento. No, no, non ho mai sentito musica. Eugenio? No, Eugenio non c'è. Altro. Quello che c'è, Gavino. È Gavino. Joker. Ehi. Ma Gavino non è a Porto Torre, se è più verso il sosso, capito? Che chiaro c'è? Perché è più verso il sosso, è la strada dei sosso di Bidriacci alla fine. C'è il telefono in carica tu. Lascialo caricare un po' perché è proprio a zero. Mi sono addormentato col telefono acceso, stavo guardando internet e ha continuato ad andare, me l'ha caricato tutto. Non ce l'ha la carica rapida. Cosa? La carica rapida non ce l'hai. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Già carica pure. Se no poi com'è carico già ti chiamo io, non c'è problema. Mi sono ordinato un ricevitore, adesso mi dovrò arrivare a fine mese, là. Ma come faccio io nel mio... Io vedo che c'è la luce in alto, come faccio io a cercare nel tuo come fai? Io ho quello uguale al tuo, quella cosa là, uguale al tuo. Io come l'ho acceso era così, io come l'ho acceso io non ho cercato nulla, come l'ho acceso era così. Perché prima c'era la luce gialla, adesso non c'è qualsiasi. Non ce l'hai il corso, dove ti spiega le indicazioni di come fare. E leggilo e ti dice come fare, non è che ci sia quello un problema. No, io sempre come l'ho comprato era così e così l'ho lasciato, non ho mai toccato nulla. Quella cosa che guarda la sua. E ho capito, No, ma questo che ho ordinato è tipo apparecchio base, dai. Rimane più ristretto come misure, però è base, è di quelli che c'ha l'antenna dietro, capito? Ho capito. Sì, ricevitore. Riceve buco, va da 0 mi pare a 30. Fa 27, puoi metterci le radio, se tu vuoi ascoltare la radio la metti sulla frequenza FM e ti ascolti tutto digitale. Ho capito. E quindi, Antonio, il primo capodanno con Gabriele. Bravo effetto. Ma lui è un angelo. Di notte addorme. E vabbè, dai, adesso sono i primi periodi. Quanto c'ha adesso? Già fatto. Igularito. E minorito ancora. E minorito sì. Fino a 3 mesi si svegliano perché vengono le coliche gassose, a volte si piangono per quello, capito? Poi dopo 3 mesi già si stabiliscono. Quindi droghi lo mi ha dato. Eh, gassoso il poverino. Ma una volta l'ho dovuto portare all'ospedale a Manuela, quando era piccolina. E il dottore si è incavolato perché l'abbiamo portata, perché stava sempre piangendo tutta la notte. Tu quando sei diciamo un genitore che non ha mai avuto figli, roba del genere, ti preoccupi, no? L'ho portata e mi ha detto che non dovevo farli prendere freddo di notte, che non dovevo portarla, questo e quell'altro. Beh, qui avevamo ragione noi, siamo andati al nido dove era, ci hanno fatto la pesata prima e dopo la poppata e aveva bisogno di latte, capito? Aveva bisogno di un'aggiunta. E lui si è incazzato e c'era una signora che praticamente aveva mangiato roba che faceva male al bambino, poi l'ha allattato e questo bambino gli hanno messo una pompetta, poverino, ha cominciato a togliere aria, poverino, qua, pignetti, gomenti, si faceva rosso rosso come piangeva, si contorceva. E ha detto, ma cosa ha mangiato? Roba piccante, roba... sì, aveva mangiato qualcosa di piccante. Per forza, signora, dice, il bambino è così. Se lei mangia roba piccante, la trasmette al bambino quando gli dà il latte. Ma lo sai come si irrigidiva? Si irrigidiva tutto, si faceva rosso rosso, bignè. E perché tu non ti irrigidisci quando ti mangi la cosa, la frittella col coso, con lo zucchero, va? No, io mi irrigidisco, vabbè, non te lo dico qua. Già lo sappiamo, sei già nel caldo tu. Cosa ti credi che non ho capito dove volevi andare a parare, eh? E beh, Natalie, buongiorno, buonasera, cioè, tutto bene, eh? Capodanno passato bene? Signore, così spero di me. Noi ci siamo sgolati, io non c'avevo più voce, abbiamo cantato, chissà quanto erano contenti quelli del palazzo, oia. Ciao Antonio. Ma c'è gente che non lo capisce. Mica l'altro giorno ho sbadigliato di notte e mi ha zuccato rumura che ci ho sbadigliato, ma dimmi tu. Cosa tu? Ah, pensavo che bene domani di luce di piazza, pensavo che avessi qualche altra K. Vabbè, no, ma l'unica cosa è ignorare le persone, capito? Io vivo e lascio vivere, però non voglio essere disturbato. Quando è venuto quello di su, gliel'ho detto, ma ha detto che non era lui. Ah, vabbè, allora chi sono di bianco? Qualche duro deve essere. Di mandarmi un caffè casino, vabbè, Natale, avanti. E Tonino non è entrato? No, non l'ho sentito, c'avevo il telefono scarico, devo telefonarlo e mi sono addormentato col telefono acceso, l'ho caricato tutto quanto, l'ho detto anche Antonio, e l'ho messo in carica, adesso a caricare. E cappa. Ma sei andata? E da poi quello vestito non ti vedi, ero freddo. Ma non sei andato a freddo. Andavi tu a cantare. Ha! Cantè, cantetti. Arrabbiato. Ma la tappa la devo fare. Eh. avanti il tattalino e tu il cantato hai. Ehi, alla sarda, voglio un'imbriaghera. Davvero? E vai. Ma io conoscendoti, che bevi? Allora, io bevo, ma vai. Vedi quando sono piccoli. Allora venire da parte, vieni da parte. Mattali. Ehi, siamo qua, mi dica, mi dica. E tu non te lo fai un figlio. E la mamma è mongo. È possibile, ma adesso mi metto a farmi un figlio. I figli si fanno quando uno è giovane, se no non te li godi, a 65 anni mi metto a farmi un figlio. Se trovo la cavalla giusta già la faccio, però dopo che mi toccava da mio. Ma concetta, non c'è. Ehi, c'è qua, perché? E te giuda? E no, lo sa che per fare un figlio avevo bisogno di una diciottenne, bella allegra, se no, come ti si fa? Oi, oi, oi, chi sta via tutto, fosse stato il concetto. Mangiare fame va. Ma già lo credo che lo pretende quella vita. E che gli vogliamo fare? Ragione se offendi Curarillo. Il modello stai facendo, Gabriele. A vedere se Gabriele sta facendo il modello. Già lo so, ma se prendi la ragione si intende che fa i denti. Lo sputtavano tutti e due, non ne voleva. E già sei giovane, pazienza ne devi avere anche tu. È per quello che io non me ne faccio figli. Cosa me lo faccio fare? Sono vecchio gadrodu. Cosa mi faccio figli? Poi non me li godo. Antonio, vedi, è giovane, a lui gli è convenuto a farselo, almeno se lo gode il figlio. Anche un altro 3 o 4 se li farà sicuramente. Cosa? La fabbrica già funziona. Sì, ma lo manco un altro, dai, non tanto distante, così crescono insieme. E un altro già te lo puoi fare, fai la coppietta, magari ti lasci una femminuccia e è a posto. Ma ci ho fatto l'esperienza con lui e poi ci pensa. No, ti va a convincere anche tu, mi ci sta buono di una cifemmina a cavalli lo corredo. Tutto se sarà d'accordo. Che avanti? Chi è che sta bippando? Questo deve essere quel marcolino condo. C'aveva un bici strano anche lui. No, non è lui, no. Quello suo è diverso. Adesso sembra quello delle... capito, cazzo ne avevo uno io di apparecchio che potevo fare il dito che volevo. Già ce l'aveva anche Marco, mi pare, l'aveva cambiato diverse volte. E quello lì è quello con gli spray grande, cazzo quello era bello veramente l'apparecchio. Che... Ci duro ricordo lo tempo deve essere puro minchia. No, è che vabbè io delle pretese non è passato manco un mese e sì, mi hanno operato qui. C'era scritto su internet che è normale, i dolori post-operatori sono normali. Sono dolori post-operatori, devi avere un po' di pazienza, è troppo presto ancora. Non è passato neanche un mese, il sì lo fai un mese. Esatto. Vabbè. Ma dice che se persistono c'è da preoccuparsi, se invece sono durano un mesetto così, un mese e mezzo, è normale perché le fibre si stanno ricomponendo. Infatti, quando il cappuccio vedo lei non ti va di più mari già, anzi, cazzo hai fatto passi da gigante, hai fatto, io pensavo di vederti con le stampelle e invece già stai camminando, logicamente un po' male hai già fatto, non sei neanche un mese operato, se vendi passi da gigante, bruba cosa dirà se vendi dura bioterapia, se no non riesci ad uscire, che ti buntano, che riesci ad ancora con i ciampelli. Oh, sembra aver attaccato la dottoressa quando ho fatto la visita. Aspetta, sta già camminando bene, ma dice la vuole fare la fisioterapia a gennaio quando riapriamo la palestra. Io ho detto guarda, io tanto devo fare l'altra visita, se lei ritiene che la devo fare, ma non penso. Dice vabbè, mi ha fatto l'ok con la mano, come dire, va già bene. Già camminando tranquillo stai. Natalì, c'è uscito basso basso di radio. E forse non ho schiacciato bene il tasto del microfono. Tu metti il lock, così almeno non sbaglio. E vabbè, esciami. Adesso ho messo il lock. Aspetta, ora, sì, già sto uscendo. Che si sente bene. Ho capito. Perché tocca metterlo di fianco il lock nell'MB più 4. Già lo so come. Si abbassa e si mette verso destra. la gara. Ma Tonino è innamorendimi. Se non entra, devo dire innamorendi è chissà. Io sto facendo spese, non lo so, io non ho chiamato perché c'è un telefono, ti ripeto, che è in carica. Adesso guardo se ha caricato, perché c'è la carica veloce, dovrebbe aver caricato. Dai. Prova a vedere già. Attenzione, Marcolino Combo, a CC. Attento Marcolino Condo, ci sei? Ma tutti spariti. Alto, ci sei? Tartalino! Oia! Va, stai entrando Tonino, va, come hai detto che... Andrà bene Meda. Così me ne sto un po' tranquillo, va. Alto, se devi chiamare, chiama, ok? E sarà venuto a mangiare un bizzino. Già. Non lo so, vabbè. Io glielo ho detto perché mi ha detto che mi doveva chiamare, ho detto che stava caricando il telefono, capito? Era a scarico a morte. No, ho capito. Capito mi hai. E mangiato un bel cantare. Ehi, di brutto, ho mangiato un bel. No, io no, io mi sono regolato. Ho mangiato poca pasta, un giorno c'era la viola, l'altra volta c'era pasta al forno, ma non ne ho mangiato tantissimo. Anche perché me li hanno messi, mia figlia mi ha fatto la parte, capito? Me l'ha dato pochi, ma non mangiare a sé a farmi male. E così sono stato. Vabbè, un paio di gamberoni, tre o quattro, un pezzo d'agnello, la testa mi sono mangiato dell'agnello perché mi piace. E poi, un pezzettino piccolo, là. Non ho mangiato più di tanto, quello che mi ha fregato è il panettone, chi sono i butti sempre. Adesso ti chiamo Tessina. Ah? Ci abbiamo da mia moglie, lo capodagnone. Ah, signor. No, ho già mangiato, ciao Tony, buonasera. Ho mangiato un bel, però la glicemia tutta tranquilla, l'indomani ero di lusso. Eppure io a 4Z30, boh. Telebari. Ciao Tarino, ciao Gianni. Avete svegliato che ero nel più bel sogno, che stavo tagliando una bella fetta di panettone. Ah! Mamma mia, ma... Non me ne dici cosa vi sura. Ma dopo il sogno si trasforma in realtà, Natalino. Prima dritto, ui. Ho detto il sogno poi si trasforma in realtà. Già lo so, a me me ne hanno regalato altri due di Tibandori, a me non mi piacciono nemmeno, puro spumante. Manco io non mangio panettone tradizionale con l'uva passa e canditi, mi piace quello e basta. Pandoro, lo mangio sì, ma non è che mi incascia assai. A me non mi piace lo stesso il pandoro, mi piace più il panettone. Ma se ne mangio, ne mangio una fettina così, anzi mezza fetta mi pare una giomagnata di panettone. Figurati. Tommy, quello che è rimasto se l'ha mangiato Marco con l'amica che è venuta da Milano, che hanno dormito qua. E se l'hanno mangiata a colazione, capito? Infatti si può fare pure così. Io già me l'ho mangiato un pezzettino di panettone e via, ma chi non ne vuole io ne manco me. Ho sentito un piccolo bip sotto fondo. Chi è? Avanti, chi vuole entrare? È tutta la sera che sta bippando, non è? Così non lo sapevo, ho sentito adesso un bip piccolo. Vedi? Comunque guarda, domani io vi invito tutte e due ad andare a fare una bella colazione con fetta di panettone e champagne. Oh yeah. Io sto fremendo perché ne ha passato uno di panettone. Un panettone, un bracchetto e uno spumante dolce. Insomma, tutto da frazzaghi. A te la fetta di panettone è piena di crema. Buon Natalino, un bel panettone con bella fetta di cioccolato. Ah, a te ti regalo la torta, come lo faccio a Falcone. Fai da bravo. Natalino. Ehia, ehia. Mamma mia, questo giorno, una scena. Cosa scena? Sono due scene. Comunque a parte scherzi, dai, se vogliamo trovare domani non c'è problema, dai. Io non ho nessun impegno, infatti chiudo anche il telefono. Invece domani c'ho tutto il giorno impegnato, tutta la via, che deve venire pure Salvatore e quindi è un macello, sono tutto il giorno impegnato. C'ho parecchie commissioni da fare domani. E da che ora, Natalia? Sì, la risetti, Zishu. Alle 5 e mezzo passo da prenderti. Giusto, no? Vi sogno, vi sogno. Andate, andate, io vi sogno. A te, ma siamo le gemme a Covici. No, io sogno, sogno. Anche se lo so contro. Ti metto un secchino nel campanello. Perché sai cosa mi succede? Che la notte non dormo, mi assorbisco sempre presto, verso le 6, e mi devo alzare, prendermi i dati dolorifici, e dopo mi drommo e mi sveglio verso le 9:15. Non mai che ha fissato con la portantina col bip. E ci vuole far sentire che c'è il bip diverso, dai. Oh, ma poi Santiago Basso va di a me, ma basso veramente. Magari non esce di radio, che ne so. E poi mi dispiace perché non c'è neanche il QRM, se me lo copriva almeno. QRM non c'è niente. Ah, appena appena c'è proprio la cosa in risuria. Natalì, cosa stai pensando? Io? Ma come fare i soldi? Trovato che ci pensi e non ci arrivi mai a fare soldi così. Oh, yeah, yeah. E io devo andare al caffè ancora, domani mi sa che ci vado, perché non rispondono, porca miseria, c'è un telefono libero e non rispondono. No, rispondono, grazie a Dio. Oggi noi andiamo i travaglienti sicuramente, e seconda lì, cosa ci pare ti rispondono. Io ma te se devo bigliarmi appuntamento a farmi il modello ISE, prima di andare a Brucia a farmi l'ugoso, come si chiama, la giacenza media, e poi l'ISE devo andare a farmi. Oh yeah. E vabbè. Mi torno a sparare, dicevo, mi taglio se faccio da razzo. E comunque resta lì, mica se deve fare cosa al comune, mica per chi so te, quindi a 7:30 ci può piano caffè. No, devo andare a ritirare la pensione mia e di mia moglie. Devo fare un sacco di commissioni, non è così, no? E credi che se il caso di Baruta gli ho detto, ma io sto a fermare a lungo, non vedo un problema. E poi devo andare a accompagnarla a fare una commissione a lei. Io credo sia così. So che tutta la impegnata domani, domani. Se no ero giunto. Ma sono giunto quando avevo appuntamento con Gianni. Tu purtroppo eri impegnato. Ci siamo trovati io e Gianni solo. Facciamo l'altro giorno quando siamo liberi tutti quanti e non c'è problema. Io domani sono impegnato tutta la vita. Venne pure Salvatore, il figlio di Concetta, domani a pranzo un macello e là. Visto, hai avuto la bicicletta la talia, va a pedalare. Infatti allora tocca a pedalare a vero. Però a pedalare mi devo vantaggiare un'anca a Buru. A chi si pedala assai da voi mi viene un dolore allucinante nella pilanta la bicicletta. E come te la punimo? Tu che con l'anca ce l'ho fatta apposta, tu l'anca, Gianni l'anca, e io batessi con l'anca, vabbè, la mia è già sistemata, già a posto, però è un po' gonfia, però io lo braccio, però c'è mi chividi, fa caridai, e siamo oltre 60 anni, fa caridai. Devo burubare, il giorno 17 devo fare un eco Doppler, meno male che mi hanno dato l'appuntamento subito, così rugotto e me ne rogavo da mezzo, poi devo andare pure dalla dottoressa a farmi ordinare un altro, proprio ballanca, mi dice lì ci fammo operare. Chi è che voleva entrare? Stavo cercando sulla mutura, cioè volontariamente a parte ci manata lì, non manata lì è passato, chi è avanti? Me l'ha preso io un'anca, di legno però! Ciao Squaletto. Ma la terza gamba. Ma per la terza gamba, buonasera. Ciao e auguri. Auguri, vi siete sovramodulati con Tattalino. Auguri, mi hai sentito, dai, avanti. La Brescia è un'anca, direi, Natalino. E se lei è pronta, andiamo, mi posso punire un paio di vidi da coso, da chi c'è amico mio, che mi ha lascia, a vedere se andare. E c'è chi va andare, certo.